se da bimbo io mi chiudevo in auto e disegnavo il mondo su un quaderno rubato, sfuggendo alla realtà col buio da contorno. Eppure disegnare non mi è mai piaciuto. Senza fate o regni incantati o principi azzurri su cavalli alati, solo inseguendo una speranza con gli occhi chiusi come gli ingenui, mi piace tornare in quel mondo lì dentro. Mi sento protetto. Ma tu cosa ci vedi sopra quel foglio? Solo un disegno poco riuscito. Io ho l'immaginazione che non sa tornare, ma se chiudi gli occhi ti puoi sentire. Ti piace tornare in quel mondo lì dentro. È tutto perfetto. Ti piace tornare in quel mondo.